11.04 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo a cominciare una nuova puntata di Parole Ribelli come ogni martedì. Ricordiamo intanto i contatti della radio: 011 2495 669, 346 66 73 263. Ciao a tutti e tutte da Eddy, da Francesca, da Silvestro, che saranno qui a tenervi compagnia fino alle 12.45. Vi lasciamo ancora con la sigla, poi iniziamo con la puntata. Mi schifo tutti, dai bambini alle vecchiette, dai cuozzi con le patente, eppure che non passano. Onestamente sti sacchetti non rilassano, poi quando sto nervoso mangio merda che mi ingrassano. Mia magistris, che cazzo stai facendo? Sapere non votavo, un'altra perdita di tempo. Chiedi a mio padre che non vedi uno stipendio, e forse sarà genetico, ma manco lo prendo. E dovrei stare appresso a sta gente che mi saluta, che fa pressione in chat ed arrivo zitta e nuda. Io faccio il rap per sfogarmi, mo che vuoi, non per voi, gente stupida, non i tuoi. Rischio l'esaurimento, sempre peggio. Che sforzo il sorriso, più parrebbe che indietreggio. Per aprire bocca forse è meglio se congeggio. 1, 2, 10, affanculo, danneggio. Non è positivo, piede destro dal mattino. Mattivo, non ti voglio scansare dal cattivo. Già bambino capivo che tu scegli il cammino. Manifolo il primo capitolo e fuori dal martirio. Non è positivo, piede destro dal mattino. Mattivo, non ti voglio scansare dal cattivo. Già bambino capivo che tu scegli il cammino. Manifolo il primo capitolo e fuori dal martirio. Allora, 11.08, andiamo a vedere quelli che saranno gli argomenti per questa puntata di martedì 25 febbraio. Ovviamente li diciamo non necessariamente nell'ordine in cui poi andremo a farli. Faremo una diretta col collettivo universitario bolognese OBO, che in queste settimane ha portato avanti un'inchiesta tra gli studenti universitari per capire un po' quali ricadute ha avuto la crisi in termini appunto di percezione dell'università, anche di possibilità di accesso, quindi che andranno a presentare oggi pomeriggio in un incontro, quindi ci faremo dire un po' meglio.

Eh sì, Colle del Fomento. Colle del Fomento. 2006, benzina sul fuoco. DJ Paro, DJ Paro. Masito, Masito. Più danno. Questa è la mia vita. Sono la mia vita. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Come un cipresso in mezzo ai bambù, il colle si eleva, quindi levati tu. Sul tempo devi andare più su. Mi fumo gli MCs mentre imposto la mista per non vedere più. Non mi sento più. Più mi muovo più resto, fermo e resto qua giù. Non chiamarlo ritorno, se porto l'inferno. Non c'è festa che dura in eterno. Giochi con rap, il rap gioca con te. E poi mi dici ma rispetto di che. Ma sento plasta, basta, devasta e cliché. Cresce l'Italia dentro il cuore del rap. 21 per me, soi, duro para sempre. Dal 75 al presente, niente per niente. Cibo per la mente, vuota, hardcore. 9-5, questa è la mia storia, ma ancora uccido il tempo con la penna e la voce ferma. Parte pucci della mia calma e disarma. Questa è la parte più reale del gioco. Con le 06 siamo benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò la mia musica è benzina sul fuoco. La mia vita è tutto quello che c'ho. La mia attitudine è rumore, non gioco. È un mondo freddo come il ghiaccio, perciò adesso la mia musica è benzina sul fuoco. Stai a pezzi a pensare che smetto. Solo perché ho smesso di pensare al tuo rispetto. Te l'ho già detto, per tutte le spine che mi hai messo in petto e nel cuore. Colle del Fomento suona ante core. Levami tutto, tanto posso fa senza. Ma te che batti me, manco nella fantascienza. Ho già esaudito la prudenza e comincia l'atterraggio d'emergenza. E se fa male, pazienza. Per me puoi fare il cazzo che ti pare. Rap, hardcore, punk rock, club shit commerciale. Io resto uguale per il poco che rimane. Se il poco è morto, rapperò il suo funerale. Tanto fa vale tutto, qua il re è nudo. Qua la città nel blackout. Bene, come annunciato, siamo in diretta dal Pala Giustizia con Mimmo. Ciao Mimmo. Mimmo, ci senti? Sì, io ti sento. Bene, allora sappiamo che in corso c'è l'udienza a Forge Paolo. Ci dici un po' com'è andata? È andato, mi hanno chiesto un po' se io sono uno che partecipa alle manifestazioni anche di notte. Gli ho detto che partecipavo a tutte le manifestazioni. Appena si sapeva, io ho sempre partecipato. E se mi ricordavo quelle del 19 luglio, ho detto sì, ricordo bene. E dove mi trovavo, stavo recandomi al cancello, al cancello numero 8, ho detto, ma non lo so io, cazzo di numero è, a dove c'era la baita. E ci ho visto lanciare i fuochi artificiali, prima una molotov, ho detto no, poi fuoco artificiale sì, lo facciamo spesso, ma cosa servono? Ma servono per far rumore, per fare sentirci che ci siamo, un modo per dimostrare la nostra contrarietà. E quindi come la fai? Fai con trombe, gridare, la battitura, io spesso cerco di arrivare lì per andare a battere, e quindi far rumore, quello fa parte anche dei rumori che sono previsti. Okay, quindi ho visto lanciare delle pietre, oggetti, ho detto sì, si vede anche quello, però spesso dico ma non serve lanciare perché tanto non si riescono, sono troppo indietro, non si riescono manco a colpire, per dire, manco a toccare, quindi è inutile. Però le ho viste. Poi i fuochi artificiali, com'è che venivano, ho detto ma mettevo manco un tubo per terra per evitare che si incendiasse il bosco, però dice, ma erano lanciati, sì, sempre in alto per fare rumore, per fare luce, per protestare. Quindi hai rivendicato la legittimità, sì, delle pratiche, sì, del movimento, perché ti hanno fatto, sì, deporre. Sì, ho rivendicato che io ero sempre presente perché credo a questa opposizione, quindi cosa faccio? Vado lì al buio la sera a dire buonasera, cerco di farmi sentire. Bene, senti, ma diciamo di pubblico c'erano compagni e compagne a dare supporto a Forge Paolo? Sì, ce n'era il pubblico, ce n'era, non tantissimo, comunque un gruppo ci sono. E come li hai visti? Ma loro, sinceramente, io sono potuto entrare solo per depositare, poi sono uscito subito dopo la deposizione. Mi sembrava abbastanza tranquilla dalla parte del pubblico. Poi quando sono uscito qualcuno mi ha salutato, così che sembrava che avessi fatto una deposizione chiara di mia posizione, di mia presenza, di mia resistenza. Poi a tutti i costi il pubblico ministero dice, visto che ricordi così bene tutto, gli arresti, te lo ricordo, li hai visto? No, non li ho visti gli arresti. Come non sai, intendeva? Poi ho raccontato che eravamo chiusi a Morsa, quindi ho dovuto pensare di scappare verso la montagna, verso la salvezza, perché faceva paura, poliziotti che ti inseguono e gli altri che ti accerchiano, insomma, cerca la salvezza, insomma. E quindi la salvezza è verso la montagna. Poi è durato, dice, come fa a ricordare? Perché io mi ricordo che è durato fino alle 3, alle 4, la fuga al buio, gente che si perdeva, quindi non trovavi il sentiero. Dice, me lo ricordo perché è stato particolare, ho avuto tanto timore che mi facessero male. Ma senti, quindi provando a contestualizzare un po', insomma, quello che è questo processo nello specifico, appunto oggi la palla, diciamo, stava un po' alla difesa, che doveva, insomma, l'obiettivo era dimostrare che il materiale che era stato sequestrato su quella che poi fu definita la macchina arsenale non erano appunto oggetti micidiali, come la procura, insomma, si è spesa nel sostenere, ma sono strumenti che vengono utilizzati normalmente nelle manifestazioni in ottava, appunto, sia come strumenti di difesa, come possono essere maschere antigas, insomma, non è un mistero che la polizia spari. Parlato, di maschere antigas con me, ci tenevano molto a sti fuochi artificiali, che io ho detto che era un segnale d'inizio, certo, per andare a battere, perché per iniziare si accerchi al candiere, quando si tutti assieme, proprio per dare la cosa eclatante, tutti assieme si mettono a battere contro le ringhiere, le griglie, tutto ciò che poteva far rumore. Certo. Poi c'è anche quello di segnalazione, dire boh, basta, perché si decide di stare un'ora e poi di andarsene, quindi di tirarsi tutta assieme per non lasciare persone isolate da sole, si spara dei colpi per dire boh, finita la protesta, e si rientra. Si servono per segnalazione e per fare rumore. Questo sono state decise, e che sono sempre state presenti, che li ho visto come si fa. Non li tenevo di negare, poi mi hanno detto di questo blocco di autostrada che io, cioè con copertoni, grandi fiamme, fumo sull'autostrada, io ho detto che mi sembra strano in quell'occasione, perché c'era la polizia in autostrada che è uscita lì ad accerchiarci, come facevano poi a bloccarla con tutta la polizia lì, quel giorno lì non mi sembra che è stato fatto quello, assolutamente. Sì, allora tu vedi solo quello che... Dice, no, io allora è intervenuto la giudice, diciamo, e ha detto, lui sta facendo la testimonianza di quello che ha visto, non di quello che ha letto il giornale, perché lui dice, non ho letto il giornale il giorno dopo, lui sta facendo la testimonianza della sua esperienza, ha detto che poi ha cercato di mettersi in salvo dalla montagna, andare, non poteva stare lì a guardare gli arrestati, i copertoni, se eventualmente c'erano. No, ha cercato di mettermi così in difficoltà, ma insomma io sono stato abbastanza tranquillo, che trovo quello che avevo visto. Sì, tra l'altro, insomma, anche un po' il gioco dei PM, dell'accusa, abbiamo visto anche nella scorsa udienza che era quello di continuare a spostare il discorso verso altre giornate di lotta, quindi verso altre passeggiate notturne, ad esempio, distogliendo completamente dall'attenzione da quelli che poi sono i fatti concreti, le imputazioni che vengono portate a Forge Paolo in questo contesto, e cercando appunto sempre di generalizzare, di distogliere l'attenzione parlando di altre iniziative che, insomma, quindi che mi sembra che quello che hanno anche fatto con te, appunto, chiedendoti di altre volte. Sì, mi parlava appunto di incendi di copertoni in autostrada, che non assolutamente 19, detto io, non mi sembra che è stato fatto quello, anche perché secondo me è impossibile. Che in generale ci sono state, abbiamo fatto atti di resistenza e di opposizione all'opera. Poi mi aveva contestato il fatto che io ero residente a Modane, ha detto che era a Chianocco. Ho detto, ma quella è la carta d'identità, ero residente. Ho preso l'occasione per dire, ero residente a Modane perché ero ferroviere al transito di Modane, merci e viaggiatori. E quindi so bene di cosa si parla e perché mi oppongo a quest'opera. Quindi il fatto di farmi questa domanda, ma sei residente qua o là, cosa cambia, non so. Probabilmente voleva farmi passare che io venivo da Modane, dalla Francia, a fare casino. Sì, non lo so. Va bene, Mimmo, grazie però, mille. No. Salutaci se vedi i compagni. Grazie ancora per questa sessione. Adesso vediamo il proseguimento, come va. Va bene, noi infatti restiamo anche in attesa di aggiornamenti, perché appunto sappiamo che anche un po' volontà del giudice procedere un po' a ritmi serrati, perché insomma la scorsa udienza è stata solo un paio di settimane fa e entro oggi puntavano a finire, poi non sappiamo effettivamente se sarà così, però appunto aggiornateci magari più tardi su come prosegue. D'accordo. Un saluto. Okay. Ciao, ciao. Quand l'injustice règne, la résistance devient obligatoire. Puis comme à tous ceux qui ont gardé leur foi, à ceux qui ont perdu leur vie dans le combat pour un monde libre et égal, je sais que la flamme dans les yeux ne s'éteindra jamais. Résistencia, la flamme dans ses yeux ne s'éteignait pas. Résistencia, j'étais fasciné. Résistencia, la flamme dans ses yeux ne s'éteignait pas. Giovanni Baretta sta in missione, un campione. E ricordiamo anche che dalla scorsa settimana Parole Ribelli viene rimbalzata anche sulle frequenze di Radio Info Auto, una nuova esperienza che ha preso vita da pochi giorni. Potete trovare il link allo streaming dal sito infoauto.org, quindi da oggi siamo anche lì, buon ascolto. In fase di espansione, la base è il meridione, niente pose ma passione. Contro il pistola, senza pistole, dalle scuole dell'asfalto per chi vuole storie nuove. Ma c'è chi fantastica, pensa che tutto è di plastica. La caratteristica di chi si illude e non mastica. Mizzeca, o meglio minchia, Kumpa Kempa Kampa 98, fotta doppia o calabrisi. Manda avvisi, aspiranti cantanti in crisi. Sogni uccisi, via fettusi dalle mie tesi. Così, roba coatta, niente WhatsApp. Mutu e Vazzappa, Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Elementare Watson che mi faccio il mazzo in mezzo, un mondo zozzo, neutralizzo, andazzi, ammuzzo, turuzzo, in compagnia di loschi ceffi, contro il clan dei buffi, la mia supposta coi baffi, tuffi, da 100 metri, nella piscina senza acqua, prima faccia tonda, adesso faccia piatta, lividi, brividi, se eviti i tuoi debiti, scalano i redditi, scappano i proseliti, contieniti, ti rode, situazioni strane, un gruppo di cialtroni vuole raddrizzar banane, tuttologhi del niente, ridicogli una cifra, possessori di mitra, ma cercatori di Viagra, la sagra. Per le strade vedo nani altezzosi, la stemio con la cirrosi che barcolla nei paesi. La mia tesi, te la spiego, atteggiamento istintivo, morrivo, schiaffetto correttivo. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Io me ne foto come Rocco, accendo il piatto, studio un voto. Il giovanotto col fagotto spinge il prodotto da sopra a sotto. Pronto, con roba cata e scascia, flescia, vibrazioni tipo minchia nell'interno coscia. Colpevole di essere consapevole, può essere spiacevole, zero favole. Io rispetto regole, trappole, qualcuno dà lezioni in materia. C'è chi invece dovrebbe andare a pulire le rotaie in Siberia. Bello, in questo gioco non si scavalca, si crea, non si ricalca. Il trucco poi risalta, il sudore ti spezza, ma ti ripaga per forza. Chi ramazza dimestichezza va in giro poi con la corazza. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Baretta, Tony, Kumpa Kempa il nome. Let's do it. rebelle, c'est un appel à la morale. La vie est belle, pour cela moi je reste radical. Je n'accepte pas l'intolérance, je n'accepte pas l'homophobie dans la danse. Je reste rebelle contre les abus sexuels, je reste rebelle. Je défends les homosexuels, je reste rebelle. Je sais que la vie peut être belle, c'est un appel à la morale, c'est un appel des rebelles. Ouais, j'observe une situation, regardez-moi ce gars-là. Il n'arrête pas d'attaquer cette fille, puis elle est le recala. Il commence à la bousculer, et j'espère que dans ce cas-là, et tous les gens vont venir avec nous pour lui faire du mal. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Et puis ça parle de Selassie, du roi des rois, du sauveur de l'Afrique et de l'Éthiopie. Heureusement, il était là pour combattre et lutter contre l'Italie. Mais n'oublions pas le massacre qu'il a fait en Érythrée. Je pense qu'ils vont faire gaffe avec les gens qu'on glorifie. Je tolère tout sauf l'intolérance, j'accepte mon avis. Et c'est dommage que beaucoup de chanteurs, beaucoup d'MC semblent pas avoir de propre opinion, c'est que des copies. On est là, les rebelles sont là, pour une nouvelle définition du reggae de raga. Je pense qu'il ne faut pas tout tolérer, je pense qu'il faut dire son opinion. Allora intanto diamo una notizia della mattinata, un gruppo di operatori della scuola di una cooperativa si sono incatenati stamattina al comune con l'intenzione di rimanere a oltranza finché non verranno convocati a Roma in seguito ai tagli e ai licenziamenti che hanno subito. Se qualcuno fosse nei paraggi, insomma, vuole andare a vedere un po' la situazione, portare solidarietà, appunto sono in piazza Palazzo di Città da questa mattina. Se volete darci aggiornamenti, 346-66-73-263. Noi nel frattempo prepariamo la prossima diretta, ancora un pezzo musicale, poi torniamo in onda con Parole Ribelli. Across the globe, no matter your location. Any difficulties or complication, it's all on my niggas in the celebration. I'm celebrating the musical liberation. The beat is demonstrating the demonstration. And you were feeling flush of relaxation. When my wax beats in it, you have a rotation. I got you a blessing, not no aggravation. When you bump us, bring the stimulation. So hurry up and get your daily fixation. But make sure that it's handled in some moderation. One dose will bring you to a levitation. So put your back into a baby, that's right, huh? I'm about to plug in some dedication. This goes out to my brothers and my correlation. All I want is to be free. You keep pushing up on me. All I want is to be free. You be you, let me be me. Let me do what I feel inside. Won't get taken for a ride. Do just what I feel inside. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Oh my goodness, obvious now you're feeling me. Envious niggas prying on killing me. Threatening my niggas and also my family. Feeling for my capability is tragedy. My technicalities die hard like batteries. Try to crush us, I'll blush cause you flatter me. You oughta be in something like PCP. Then come against a fool like BEP. Oh no, you didn't try to contest me. Cause my delivery won't control your body. I'm breaking down all of y'all mathematically. Yes, mentally, physically, and spiritually. Actually, I'm ripping your anatomy. Cause literally, you be in the cemetery. I'm about to throw a shout out to my piece. Dedicated to the DJs that won't put in the streets. All I want is to be free. You keep pushing up on me. All I want is to be free. You be you, let me be me. Let me do what I feel inside. Won't get taken for a ride. Do just what I feel inside. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Everything will be alright. Rip it good like Devo, we rip it good. You understand? Yo man, it's understood. When it turn a mess like Tiger Woods, bumping in your suburbs or bumping in your hood, rocking in your box for your hoopty hoop, bumping in your hot beam at 850 coupe, yeah, cause I'ma inform you on what to do, hopping your ride and drive down your avenue, bumping in your barbecue and your seeing you. At a journey feeling at ease is what I see in you. Cause ain't no stopping it, stopping it. Cause we be rocking it. Yeah, yeah, yeah. E 42 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Andiamo adesso con una prossima diretta. Sentiremo Mattia, uno studente del campus. Ciao Mattia. Buongiorno a tutti e a tutte, ciao. Mi senti? Sì, sento bene. Allora, sappiamo che con altri studenti del campus è partita una campagna sugli orari della biblioteca proprio del campus Luigi Einaudi. Ci puoi raccontare un po' questa campagna e l'assemblea che si terrà poi domani, che avete chiamato? Beh, sì. Allora, diciamo che inizialmente appunto questa campagna per la biblioteca, dove sostanzialmente andiamo a chiedere 2 ore in più sulla fascia oraria della biblioteca del campus Luigi Einaudi, che sottolineiamolo, è la seconda biblioteca più grande del Piemonte, con 26 chilometri di scaffali, e quindi per noi è un'ottima risorsa e dal punto di vista appunto dei libri consultabili nel periodo degli esami e dal punto di vista appunto degli spazi, visto che è su 3 piani e 3 piani diciamo di dove potremmo studiare, e quindi a noi diciamo questa biblioteca serve molto. E gli orari della biblioteca però non sono consoni appunto ai nostri bisogni, nel senso che il campus chiude alle 8 di sera, mentre la biblioteca chiude alle 6 del pomeriggio, così come il sabato pomeriggio rimane chiusa. Allora, proprio per questo, confrontandoci tra colleghi, ci siamo posti appunto un paio di domande che partissero dalla questione della biblioteca, e con questo appunto abbiamo lanciato una campagna, una raccolta firme che è andata molto bene, fino ad ora siamo arrivati a 500 firme, e appunto con questa richiesta da un lato abbiamo appurato quanto comunque sia serva la biblioteca in università, è un servizio basilare, ma soprattutto con i feedback che ricevevamo dagli altri studenti quando andavamo a fare il volantinaggio, notavamo che c'erano tante altre questioni in ballo rispetto al campus. Faccio un po' d'esempi: la carenza di aule studio o anche i loro orari. Calcolate che al campus, su 45.000 metri quadri di estensione del territorio, ci sono solo 2 aule studio che rimangono aperte fino alle 8, nemmeno fino a mezzanotte. Oppure, che ne so, non c'è un posto per gli studenti dove possano chiacchierare, ma anche solo prendere il caffè tranquillamente. Oppure non ci sono delle panchine su cui pranzare, sempre su un'area di 45.000 metri quadri. Ecco, abbiamo ricevuto un po' questi feedback dagli altri studenti, e quindi abbiamo sentito un po' la necessità 10 giorni fa di pensare non solo a una raccolta firme, ma a un'assemblea che mettesse che mettesse in campo tutte queste cose qui, appunto, e che appunto noi studenti vedeva in, come si dice, in primo luogo noi studenti, appunto, portare queste problematiche del campus. E questa assemblea avverrà domani, appunto, alle 2 proprio nel campus. Dobbiamo dire che sul campus tutti questi elementi che ho citato, tutte queste problematiche, sembrano un po' darci il disegno, appunto, di un qualcosa, di un piano, di un nuovo piano dell'università, perché è come se in questa università il campus, che è appunto costruita da un anno e mezzo, sembra fatto apposta perché noi studenti dobbiamo andare a lezione, ma non ci dobbiamo fermare oltre all'università. Anche perché, per dire una banalità, le aule sono le aule del campus, il campus di Luigi Einaudi, sono chiuse fuori dall'orario di lezione. E quindi questo è un problema, è a livello di servizi che ci offre la biblioteca, che ci offre appunto l'università, scusate, ma è anche un problema rispetto alla qualità della vita come universitari e come studenti lì dentro. Bene, un po' tutte queste cose, queste piccole cose che messe insieme, questi piccoli problemi che messi insieme ci danno un quadro, appunto, dell'università preoccupante. Noi andremo a discuterle domani in questa assemblea che, ribadisco, è alle 2 al campus, appunto, al campus Luigi Einaudi, fuori dalla biblioteca. Ecco, questa, non so, sono stato... Sì, sì, sì, no, tra l'altro, insomma, con generale. Gli ultimi spunti hai anticipato, appunto, una cosa che ti volevo chiedere, che, appunto, per chi ha avuto modo di vedere, di attraversare il campus, ci si rende proprio conto di come sia la struttura in sé, che è fatta davvero in modo spersonalizzante per, insomma, atomizzare gli studenti, impedire, appunto, forme di socialità, ma penso anche solo ad alcune regole assurde che vivono all'interno, appunto. Un campus che ha, insomma, la fortuna di avere un grosso spazio verde all'esterno su cui è assolutamente impossibile avvicinarsi, e tanti altri esempi potrebbero essere fatti, quindi credo che, appunto, anche il feedback che avete avuto dagli studenti derivi anche un po' proprio dal tipo di vita che viene imposto all'interno di quella struttura. Sì. Beh, poi, per dire, collegandomi a questo discorso, per dire un'altra cosa che può sembrare una cazzata, ci sono 254 telecamere nel campus, e 254 telecamere non sono poche. Quindi tutti questi elementi, più quelli che dicevi tu, Francesca, cioè, ci danno appunto questo quadro. E io dico una cosa, facciamo attenzione, seguiamo bene i passi che farà il rettore rispetto a questo campus, perché stiamo parlando di una struttura nuovissima, che è stata inaugurata un anno e mezzo fa, e quando è stata inaugurata l'allora rettore disse: questa, la costruzione di questa università per noi di Torino, è una prova di forza, perché vogliamo far vedere che anche in tempi di crisi noi andiamo a investire nell'università. Ebbene, investire all'università, se questi sono gli investimenti, allora ci dà un'università che è sempre più una fabbrica, appunto, sempre meno di luogo del sapere, luogo dove scambiare, appunto, il sapere, perché, ripeto, stando noi al campus siamo molto più votati, appunto, ad andare fuori da quelle aule piuttosto che stare dentro. Ma anche solo a livello estetico, per dire un'altra cazzata, vediamo solo muri bianchi dentro il campus e non c'è nemmeno una bacheca. Bene, messe insieme tutte queste cose qui, ed ecco che abbiamo il campus, che appunto è un'università che ci vuole lì, i professori ci vogliono lì solo per l'orario di lezione e basta, dopo dobbiamo andare fuori a lavorare, a fare lavori precari come il call center piuttosto che il cameriere e tanto altro ancora. Comunque sia, noi stiamo cercando di costruire qui dentro qualcosa anche per rovinare un po' questo piano, e anche esteticamente per dare una botta di gioia a quel posto che, ripeto, sembra sempre più un ospedale o un carcere piuttosto che un'università, un luogo del sapere. Ecco. Sì, Mattia. Ritornando un attimo alla biblioteca, sappiamo che i bibliocops sono mobilitati un po' di tempo fa, più o meno sulle stesse tematiche, e che parteciperanno domani all'assemblea. E sì, sì. Avete parlato, avuto rapporti con i bibliocop? Sì, allora, già rispetto ai bibliocooperativisti, ricordo l'anno scorso erano stati loro a sollevare diverse problematicità rispetto al campus e si erano pure mobilitati perché c'erano stati dei licenziamenti. Sì, riguardo alla questione della biblioteca, nei diversi volantinaggi che abbiamo fatto fuori dalla biblioteca abbiamo avuto il piacere di parlare anche con loro, loro ci hanno invitato a un'assemblea. E boh, i bibliocooperativisti sostanzialmente sostengono quello che sosteniamo lì, sosteniamo noi, chiedendo le 2 ore in più, dicendo che comunque sia questo porterà loro in cooperativa, porterà loro un po' di casini, perché magari aumenteranno le 2 ore alla biblioteca, però loro saranno costretti a lavorare quelle 2 ore in più, però a parità di salario, ecco. Quindi ci sono un po' di problematiche che anche i bibliocooperativisti stanno cercando di capire. Comunque sì, anche loro sono pronti a mobilitarsi, a quanto pare, in primis per questa questione rispetto alla biblioteca, ma parlando informalmente con loro anche per diverse motivazioni, tutte sulla ristrutturazione un po' gestionale del campus, laddove comunque sia loro nella ristrutturazione, come posso dire, quella un po' più tecnica delle aule, dei dipartimenti, dove deve andare un'aula, piuttosto devono mettere un altro dipartimento piuttosto che un ufficio, ecco, di un po' di come viene gestita l'università, i bibliocooperativisti in questo non vengono proprio menzionati. Ma anche solo per la gestione della biblioteca vengono contattati in primis i professori per qualsiasi problematica, piuttosto che un bibliocooperativista, che è uno appunto che lavora in biblioteca e quindi sa come funziona la biblioteca. Bene, la mia sensazione è che loro si sentano tra virgolette molto molto molto sfruttati e quindi secondo me sarebbero pronti alla mobilitazione. Comunque l'assemblea di domani darà un po' la misura di queste mie parole e vedremo. Detto questo, oggi e domani si continua a volantinare prima dell'assemblea e alle 14 assemblea al campus Luigi Einaudi. Va bene Mattia, noi ti ringraziamo per questa chiacchierata e per essere stati con noi, non possiamo che rilanciare l'appuntamento quindi di domani alle 14 all'ingresso della biblioteca del campus. Buon lavoro allora, buon proseguimento per questa mattina, a risentirci presto. Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao Mattia. Mattia. Allora continuiamo, un breve stacco musicale prima di continuare con l'ultima diretta e un saluto a Ilaria che ci ascolta. Per chi è costretto a nascere oggi per migliorare il domani suo, per migliorare le cose, per mio fratello Arne Piz, 1-1, e per Baracruda famiglia, GBZ, Baracruda, la testa regola, 34 indipendenti. Domani al primo aereo a Fiumicino, m'esce l'ansia dal cuscino, ho cancellato la rubrica del telefonino, fatto perché ho deciso di seguire il tuo consiglio, e me l'ha detto pure il presidente del consiglio, per scelta, per dignità, per fame, per lavorare, perché è rimasta l'ultima possibilità, nella città che ti dà vita impari a crescerci, ma sai se un giorno il nostro figlio potrà nascerci, vattene in fretta all'alba, prima che un alfa dei caramba ci se beva pena canna, vattene via dai tuoi problemi e li ritrovi tra le mura, migrante ma lo stadio ci andrai senza schedatura, dice vattene, ma ho tante cose care qua, dice statene, al tuo posto non ci so sta, dice sbattitene, ma non lo riesco a fare, perché nel bene e nel male la mia terra è questa qua, ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene, ci avessi in faccia sua maestà gli direi vattene, se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene. Vattene, ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene, ci avessi in faccia sua maestà gli direi vattene, se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene. Vattene. Pestacce dentro 1+1=3, 21 stati della mente che mi incollano e non smollano da dentro me, quello che c'ho sta qui, quello che so non conta più, quando sorpasso la frontiera e perdo l'alibi, vattene via da chi, è solo amore sì, se quello che mi porto addosso solo è chimo sì, per chi non può capì, per chi non sa sentì, dentro la testa c'è una bomba e sta scoppiando qui, questo è un paese per vecchi, chiusi e barricati dentro a feudi di specchi, con 1000 tasche e impicci senza gli occhi, ingannano la morte, corrompono la sorte come spettri in una giungla di falsità, dove vivemo barricati dentro la città, vivendo la metà, pensando che qualcosa un giorno cambierà, ma il tempo passa, non si ferma manco per salutare. faccia alla realtà, mi ha detto vattene, mi ha detto qua non ha senso neanche più combattere. Chi l'ha capito al volo, da qui si è dato subito che qui c'è un posto solo, ed è quello da suddito, da schiavo messo prono. O scappi per cercare il tuo perdono, o resti a corte a lucidare il trono. Corri, uomo, corri con quel poco che ti resta, vattene via da qui prima che ti fanno annabbia con la testa. Senza speranza né domani, a litigasse l'osso come i cani, per far ingrassare quattro infami, quattro stronzi che aspettano che schiatti, tra concorsi truccati e contratti che so ricatti. Qua non passa, non ci so resti per nessuno, te vanno a testa bassa, sono contento del digiuno. Ma se il futuro è tutto ciò che abbiamo, scavalcheremo il muro e andremo ancora più lontano. Anche se in faccia la realtà io ho detto vattene, ci avessi in faccia sua maestà gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene, vattene. Ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene. Ci avessi in faccia sua maestà gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene, vattene. Vattene, scappa, sto posto è stretto, si strappa. Tutti contenti solo quando si stappa. Città in blackout, polvere acciaio. Vorrei fuggire, sparire in ogni singolo dettaglio. La libertà è il loro bersaglio. Scrivo la realtà come travaglio, frega un cazzo se sbaglio. Passi fatti tra matti, una malattia, solo per andare via dalla periferia. Vattene dai fra, pensavi alle Hawaii ma non te ne vai man. Se non a Sabaudia o il mondo nei Ray-Ban, sulle dita su un iPad farei di tutto per andare via da qua. Dopo tutti questi anni scapperei pure stanotte senza manco salutarci. Nel frattempo ci arriva notizia anche di ascolti internazionali da Berlino, quindi non possiamo che salutare le nostre ascoltatrici in trasferta. Sai che spacca, la strofa che tira poi la tua testa flippa. Adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra. Ci giochi ma con rap non ci si gioca. Sai che flippa hardcore, solo hardcore per questo. Se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai. Non ti do quello che vuoi, zero rape, zero gabber sopra il colle, soltanto un beat boy. Niente storie strane, troppe cose a puttane. Arrivano messaggi in regia e per Pathfinder il pezzo di prima era Vattene barra cruda, quello da adesso solo hardcore, Colle del Fomento. Ma non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che ti resta dentro la tua testa se non lo cancelli. Sto coi lupi perché sono tempi cupi, bevo birra ma non serve per tappare i buchi. Non regalo niente quando volo, io non faccio flop sopra il Colle del Fomento. Niente trip, niente trip hop, solo hip hop e Cristo e Dio non capisco. Un meccanismo c'è ma l'hanno messo ben nascosto. Se mi paghi flippo ma se cerchi storie tipo DJ Flash, quelle non le faccio neanche per il cash. Cash, cash. Solo hardcore 10-100-1000 volte. Pure se è pesante devo essere forte. Sempre solo stecco l'aria con una sigaretta accesa, carta e penna nella stanza chiusa. E non c'è scusa, solo hardcore, guardami negli occhi. Io cerco un modo per star bene, giorni amari troppi. Chi non ha niente da dire è meglio che non dice niente, ma quel che sento mi fa piara male, sempre più pesante. Quattro mano vero e qualche cosa ti rimane. Se parli parla in faccia, se non sei un infame. Non vali di cose a cazzo troppe in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo show che la TV non puoi vedere. Aspetto il giorno perché notte ma non puoi capire. E non mi puoi seguire, è una questione di mentalità. Se c'è soltanto la facciata la casa non c'è sta, soltanto una vetrina come esca. So bene chi sei e non mi aspetto che tu capisca. Veloce con un flipper se lo fai piottare, coatto per necessità per continuare a fare. Sempre solo hardcore sopra il Colle del Fomento. Flippo solo hardcore mentre cambia il vento. Io resto uguale solo hardcore per necessità. Se spendi certe cose non ti inculo, questa è la realtà. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. Perché flippo solo hardcore, non regalo niente perché flippo solo hardcore. il suono della strada che fa muovere i tuoi passi verso di me. Il suono della strada è quello che so. Il suono della strada che ha già deciso per te. Il suono della strada. Il suono della strada. Dentro il cerchio c'è chi produce stile, lascia un marchio. C'è chi ne sa, chi ne vuol sapere. Molta gente che vuole ascoltare. Dentro il cerchio puoi trovare il suono della strada, il suono che accompagna queste rime. Suono che mi dà l'ispirazione, suono di un guaglione. Le dita sopra il father, pater noster. Dentro il blaster da paio, divido il tempo sopra un loop. Venghino, signori, ascoltino e sappiano, non ve ne è come minimo. Prossimo allo stile più biblico, lirico l'MC per il pubblico. Escogito, nuove storie per il palcoscenico. Conosci il mio stile, suono civico. Senti come suona d'amore, è come scritto in zona d'ora. So che viene da lontano questa vibra che ci aiuta. E ci sarà un motivo se è venuta. Il suono della strada che fa muovere i tuoi passi verso di me. Il suono della strada è quello che so. Il suono della strada che ha già deciso per te. Il suono della strada, il suono della strada. C'è chi mi ha fatto ridere con metriche del e rime per. In mano a chi non può far altro che. Immagino lo sforzo dell'idiota che ha cercato di fregarmi con sotterfugi da obbligarmi a dire svegliati. Tu scendi dalle stelle ma non vi è festa, non vi è lista, non vi è scusa che tenga. Esci dal tuo manga, vieni sulla strada e lascia che la strada decida. Scarsi in mezzo ai baldi in Don Down, volano con Peter Pan, illusionisti più di Simba, appesi come Tarzan, ma quanto è forte Tarzan, per cui la quale ci cale se non sai fare te, vuol dire che non sei portato. Ho notato, Sucker, che insisti, bravo dirla. Really alive, another sound is dying. Oh, il suono della strada che fa muovere i tuoi passi verso di me. Il suono della strada è quello che so. Il suono della strada che ha già deciso per te. Il suono della strada. Il suono della strada. 11 floors above the city, looking up past the bars. My windows hold the frame of my picture, I'm watching water slice the street like little scars. I sit in darkness, listen to the loop of screaming sirens. My heart beats like an 808, keep pumping. Flashing blue lights, spin water wall. The wind crashes, knocking against my door. I twist the blinds and leave the world behind. Entering the madness of my second side. Racking cans, hitting Lava Bay Yard. Three tracks up from the guard, I crack my lids and start spraying. I search the air for transits coming. I'm pulling off daylight panels. Take my fix and then escape like sorrow. Day to day I'm trapped in visions, painting stillers like a real orgasm. I represent. 12.04 sulle libere frequenze di Blackout, siete sempre in ascolto di Parole Ribelli, proseguiamo con la puntata, andiamo a fare un altro collegamento, abbiamo raggiunto ai nostri microfoni Betta del collettivo Ovo, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Betta, ci senti? Ciao a tutti. Okay. Sì, eccomi, mi sento, ciao okay. A tutti e tutti. Perfetto. Senti, con te volevamo un po' discutere di questo lavoro d'inchiesta che avete portato avanti nelle ultime settimane, che cerca un po' di indagare quella che è la situazione dell'università nella crisi. Chiaramente insomma, la crisi ha avuto degli effetti tangibili sul mondo della formazione, non solo nei termini delle varie riforme che si sono susseguite, che hanno smantellato insomma pezzo dopo pezzo tutte, insomma, dai finanziamenti a tutti i servizi che gravitano attorno al mondo dell'università, come le borse di studio e non solo, ma chiaramente hanno anche poi delle ricadute su quella che è la percezione degli studenti stessi rispetto all'università. Se da un lato appunto i dati ci dicono che c'è stato un indubbio calo delle iscrizioni all'università, dall'altro però si tratta di un fenomeno innanzitutto non omogeneo a livello nazionale, perché se non sbaglio alcune facoltà, tra cui quelle di Torino, sono in controtendenza rispetto rispetto a questo calo. C'è ancora quindi una domanda di iscrizione, di formazione universitaria, e dall'altro anche un po' capire quali sono le motivazioni con le quali oggi uno studente decide di iscriversi all'università nel momento in cui è ormai chiaro a tutti che insomma questo ha perso qualsiasi funzione di ascensione sociale, che non garantisce assolutamente poi un ingresso nel mondo del lavoro, se non in quello fatto insomma della precarietà e dello sfruttamento. Quindi queste credo sono un po' le domande dalle quali siete partite. Ti lascerei la parola per spiegarci un po' il lavoro che avete fatto, quello che insomma avete scoperto. Allora, nell'introduzione diciamo che hai già riassunto un po' i nodi cruciali su cui si sono articolate un po' le domande che abbiamo fatto. Sicuramente quello che emerge anche dal quadro che hai delineato tu, ci sono dei nodi estremamente contraddittori che i risultati dell'inchiesta mettono in luce, ossia il fatto che nonostante l'università non venga più percepita come un dispositivo di ascensione sociale, comunque sia nell'istituzione universitaria riposano ancora alcune speranze sul futuro, sebbene con delle perplessità anche estremamente forti. Volendo andare un po' nello specifico, abbiamo provato a capire un po' sul perché ci si iscrive all'università oggi, quali sono un po' i rapporti dei singoli sia col sistema della valutazione sia con l'idea stessa di meritocrazia. E diciamo che queste due domande sono nate un po' da dei discorsi che abbiamo avviato collettivamente nelle assemblee, ossia quanto alla dismissione dell'università sia collegata un po' anche una messa in discussione di quella che era lo specchio per la lode del merito, nel senso che sì, è vero, siamo tutti meritevoli, siamo tutti quanti da 30, però effettivamente abbiamo tutti quanti ormai interiorizzato il fatto che non necessariamente questa qualifica poi ci porterà ad un qualche esito lavorativo soddisfacente. E poi abbiamo anche un po' cercato di vedere quanto effettivamente le condizioni materiali siano cambiate o quanto ci sia stata una percezione delle differenze, dei cambiamenti, delle condizioni materiali nella crisi. E in effetti abbiamo visto che sono aumentate, diciamo, un po' è aumentata un po' la necessità di far fronte al debito morale nei confronti dei genitori, quindi cercando lavoro, oppure molti hanno risposto che non hanno un lavoro in questo momento, ma lo stanno cercando. Che comunque sia, nonostante l'università sia in fase di declino, comunque sia gli studenti e le studentesse vengono sottoposti a dei ritmi di studio tali che comunque non gli lasciano margini per cercare un lavoro o comunque un qualcosa che funga da palliativo alla condizione di sofferenza economica dei genitori. Certo, poi il discorso... In questo senso, dimmi. No, dicevo che poi ovviamente nel momento in cui un lavoro, purtroppo per fortuna, lo si trova, i ritmi di studio necessariamente rallentano, le tasse aumentano se si va fuori corso, quindi diciamo quella dell'università nei modi e nei tempi di vita che nelle condizioni che pone diventa una condizione abbastanza stringente. Sì, è una condizione frustrante, un po' un cane che si morde la coda, e infatti la maggior parte delle persone che incappano nella necessità di dover cercare un lavoro per mantenersi o per aiutare i genitori poi sono quelle che effettivamente non sanno bene il motivo per cui si sono iscritte all'università o comunque sono generalmente quelli più insoddisfatti. E infatti ad esempio il 57% degli studenti e delle studentesse che abbiamo intervistato risponde che in questo momento non sa bene perché si è iscritto all'università, ma soprattutto non è assolutamente soddisfatto. E non è soddisfatto della didattica, ma soprattutto della condizione di precarietà a tutto tondo che gli appesta l'esistenza quotidiana, insomma. Quindi diciamo avete riscontrato anche un po' una consapevolezza del mutato scenario lavorativo, perché diciamo usciti dall'università si tenta di entrare in un mercato del lavoro le cui coordinate sono cioè iscrivono e condannano a un futuro di precarietà assoluta, quindi alcuni possiamo dire che avete rilevato che alcuni si iscrivono all'università anche per ritardare questo momento inesorabile che presto o tardi arriverà, che con o senza comunque non promette nulla di soddisfacente nella prospettiva. Esatto, esattamente, anche infatti quando poi abbiamo cercato di andare più a fondo molti hanno risposto, mi pare circa il 40% ha risposto che andare all'università è comunque meglio che iniziare subito a lavorare, nel senso che la consapevolezza che andare incontro al mercato del lavoro sia andare incontro ad una condizione di working poor è estremamente interiorizzata al tempo stesso, quindi si cerca un po' di tappare i buchi e perdere dell'altro tempo. Però è chiaro che in una condizione, in una situazione come quella in cui ci troviamo oggi, quindi di declassamento della ormai defunta classe media e quant'altro, anche assumersi la responsabilità di andare all'università per perdere tempo inizia a diventare estremamente pesante, anche da un punto semplicemente morale. Bene, Betta... E infatti... No, vai avanti. Infatti il 50% degli intervistati risponde che si sente estremamente in debito nei confronti della propria famiglia. Certo, vediamo che le condizioni di tutti, diciamo, diventano la proletarizzazione del ceto medio andante, le condizioni diventano sempre più difficili, anche quel residuo di welfare familiare che permetteva magari ad alcuni di studiare si sta esaurendo sempre di più, come la vostra inchiesta del resto porta alla luce, sempre più studenti, non sono più soltanto studenti, ma studenti, lavoratori precari, piuttosto che in realtà disoccupati in cerca di lavoro. Sì, poi è chiaro che parte delle aspettative vengono deluse dal fatto, specie quando ci si trova ad essere studenti lavoratori, vengono delusi appunto perché ci si aspetta di esperire una condizione studentesca che poi di fatto si trova ad essere mescolata con una condizione che è già direttamente di precarietà, nel senso che i ritmi di studio sono quelli che sono, pagare le tasse diventa impossibile, il costo dei libri è aumentato in maniera imbarazzante, quindi insomma... Infatti avevamo visto avevamo visto anche il vostro collettivo aveva, diciamo, da un'assemblea era uscita questa pagina di Spotted Unibo per i professori, e diciamo possiamo dire anche che tutti i dati che sono emersi sono anche un po' la condizione che fa sì che finalmente anche i professori vengano indicati come controparte all'interno dell'università e che si tracci una linea molto netta tra la condizione comunque di coloro che si iscrivono e coloro che diciamo tra appunto alcuni tra coloro che ci lavorano e tutti gli altri. Sì, assolutamente sì, il progetto di Spotted è esattamente sulla stessa linea d'onda dell'inchiesta. È chiaro che poi qui il discorso si fa anche un po' più complesso, però nel senso che mettere a critica l'università della crisi e nella crisi vuol dire anche cercare di mettere a critica determinati rapporti di potere. Sicuramente Spotted è, diciamo, uno spunto, un suggerimento a pensare che non necessariamente gli studenti o precari dell'università si trovano in una condizione di debolezza tale da dover accettare anche l'inaccettabile. Va bene, Betta, grazie mille. Direi che il lavoro che avete fatto è veramente utilissimo, comunque sono saperi che, diciamo, possono tornare utili a chiunque, anche nella metodologia che magari avete usato per inchiestare il vostro territorio. Ricordiamo i riferimenti per consultare questa inchiesta, obobologna.info, e ti ringraziamo. E rilanciamo ovviamente anche l'appuntamento di questo pomeriggio per chi fosse a Bologna, che insomma può avere la possibilità di partecipare. Va bene, io ringrazio voi. Ciao, un saluto. Ciao, buona giornata. Anche a te, ciao. 12:15, andiamo avanti, ancora un po' di musica su Parole Ribelli. Quello io non lascio che si spenga. E non è il 4 luglio ma una nuova indipendenza. Rapstep prova, check, senti e lascia che ti prenda. Keto is in the house, oh my god, danger. Mi basta un 16 e ti cambio lo scenario. E fanculo il conscious rap, suono rivoluzionario. Reggio Calabria, la crew dei calafricani. Gira con Inti Man, ascolta Instilli Money. Supporto chi combatte, veloci raptor rapper. La pioggia sul mio carattere, strada sotto le scarpe. Come su un vecchio nastro, basta un take per il disastro. Non finti artisti indie, quindi inti, spingi il tasto. E a questo punto se sei vero già lo sai. O non ci vedi come un cieco che non sa leggere il braille. Odio i fascisti ricchi, i preti e il libro cuore. E allora questo pezzo è dedicato a Umberto, il pastore di Biella. Tu senti se ti piglia, rap step con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testa e musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Noi figli del boom bop. Tu senti se ti piglia, rap step con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testa e musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Kento sulla traccia, Inti, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. C'è sangue sul contante di Silvio e non si lava. Ogni mio 16 è un M16 che spara in strada. Contro i sound di plastica col sol più resistente. Giro a piedi come sempre, RC, City, Rambler. Non sopporto certa gente con il trip densi cosciente. Buona parte dentro i testi non dice un cazzo di niente. Nella nostra festa, né rapstar né gangsta. Matani che benzina e lira come a Belfast. Senti col cuore più che con l'orecchio. Troppi parlano d'amore però amano lo specchio. Consapevolezza, stile, musica e sapere. E non la stringo la mano al carabiniere. Continuo a farlo come l'ho sempre fatto. Resto rivoluzionario finché il battito è piatto. Noi figli del boom bop, tu senti se ti piglia. Rap stack con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testa in musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Noi figli del boom bop, tu senti se ti piglia. Rap step con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testi e musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Noi figli del boom bop, tu senti se ti piglia. Rap step con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testi e musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Noi figli del boom bop, tu senti se ti piglia. Rap step con Inti Man, Calafro San Famiglia. Tra chi fa testi e musica ma non trasmette nulla. Se c'è il mio pezzo in play, hey DJ, fammi un pull up. Palermo original rap with new school leaders. Stalka terrorize your city. Everybody. Individual MC. And if you don't know, y'all better recognize Palermo Centrale. Once again, once again. Stalka terrorize your city. Everybody. Individual MC. And if you don't know, y'all better recognize 7, 6, 5, 4, 3. Vengo al mondo come Buddy. Sono mozzatori di paludi dall'età con cui ti ludi alle carceri in cui ti chiudi mentalmente. Sorseggio ossigeno, detergo la mia mente. Per ogni figlia rimo un pretendente. Fatto sta che ci facciamo largo. O forse sareste come gli orsi letargo. Sto che me più un cumulo di bestie. L'alternativa sana alla droga delle vostre feste. Espandiamo amore in ogni direzione. Se averlo allora non sarà funzione. Cuore e cervello che colmano il divario del tuo fare statuario con l'indole del bancario. Paralizzati siamo ancora tra la prina. Perdiamo ancora ogni mattina presso ad una littorina. E tu per una cazzo di passione eccezionale vuoi prenderci l'impronta digitale? Non vale, chi sale di livello può parlare. Ricordi, siamo troppo vicini ai bordi. Già che c'hai 5 bocconi allora mordi. Mi faccio 2 risate come un film di Alberto Sordi. Tutti qui cercano l'oro, quindi sono puntuali come ad un appuntamento di lavoro. Noi guardiamo il mondo da sto foro e le ferite di sto toro alla corrida le disinfettiamo con il cloro. Tocca terrorize your city. Mad-body, individual MC. And if you don't know, y'all better recognize Palermo Centrale. Once again, stalker. Terrorize your city. Mad-body, individual MC. And if you don't know, y'all better recognize 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vengo al mondo come stalker, figlio di una stirpe di stressati che ritornano qua. I risultati sono cambiati. Red 2003, mettiamo i dati, è una tribù che balla un ritmo voodoo, imbambolati e poi infilzati. Tutto ciò che resta in fiamme vogliono tendere il filo che brucia microfono e attaccarci ad ogni modo, ma crollano. Storie di babele che ci accolgono, chiamateci, curiamo il tuo cervello dentro un fungo atomico. La polizia è fascinati, bruciamo chi non tollera con la sua stessa collera, incazzati. 2003 più arti, compresse come file zip che godi a scaricarti. Ogni simbolo è un campione per curare. Rispetta chi ti cura il culo senza inchiappettarti. So che vadi è chi continua a rispettarci. Per tutti gli altri è una crew di bastardi. Sarà che tengo 21 anni, dici passati a fare i conti, per un futuro senza fondi a dannarmi. Potrei prestare il fegato ad attaccarmi al tram finché non passa qualche tipo a rapinarmi. So che vadi MCs con i dardi e petardi, nuove leve venute a scassinarvi. Sarà una scanna, legati come vanna ad ogni spanna, queste rime salvano come la manna. Tocca terrorize your city. Mad-body, individual MC. And if you don't know, y'all better recognize Palermo Centrale. Once again, stalker. Terrorize your city. Mad-body, individual MC. And if you don't know, y'all better recognize 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MC sovrappeso per lo sclero che portiamo giù da un demo. Torniamo con un CD pieno, masterizzi e costa meno. Mio Dio, espandere in un posto dove non c'è un cazzo e piangere. Se chi è tornato manco sa che spingere. Vi puoi provare. Siamo tornati stock e vati. Dice Marco, puoi trovarci sopra il banco. Ogni momento che spendo, vendo il mio presentimento a chi crede che qualcosa stia accadendo. Stock e vati, usciamo dalla fogna già dal primo. Drizziamo il nostro destino come Luco Vincenzino. La merda in culo per il vulcano in stazione, la teniamo sin dai tempi del mondo e la sua creazione. Vogliono bounce, manovrare i fili, i danno pezzi più spessi dal peso di 1000 chili. Ora la scena aspetta che qualcuno salga, e chi c'ha le armi per salvarsi se ne avvalga. Yeah. No, Willow! Stocca! Terrorize your city. Mad-body, individual MC. And if you don't know, y'all better recognize Palermo Centrale. Once again, stalker. Terrorize your city. E allora ricordiamo un po' di appuntamenti. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, questa sera alle 21 il consueto appuntamento all'asilo occupato di Via Alessandria con una cena benefit detenuti, e al Mezcal Squat riunione del comitato Notav Torino e Cintura. Poi domani mattina una resistenza a uno sfratto in via Orbetello 162, come anche venerdì 28 in via Giocchino 78, il quartiere dell'occupazione di via Roccavione. Ricordiamo invece stasera l'appuntamento con il Cineforum Cinepresa del terzo piano alle ore 21, Fragole e Sangue. Tra l'altro sul profilo della biblioteca autogestita del terzo piano trovate poi il programma completo di queste due settimane di iniziative. Rimanendo in tema di appuntamenti, dato che abbiamo ancora alcuni minuti, tra poco andremo a fare anche una diretta per presentare un appuntamento di questo pomeriggio sotto il comune di Torino, un presidio che è stato indetto dai lavoratori del Grade Nigo, che segue la manifestazione della settimana scorsa. Rappano spazzatura, senza un vero valore, io il flow termovalorizzatore. Sei nel limite, tu molla il campionatore, se Giuda sputa beat, donde fibrillatore. Ricordiamo il pezzo di Moican, questo che state ascoltando adesso. Del padre carabiniere, abbatto queste barriere, i miei incastri sono cerniere, su un nuovo mondo fecondo senza frontiere, clandestino senza arrivo, viaggio di cuore in cuore, cerco il mio destino, del vino un po' di calore, ho il fuoco nell'intestino, ma freddo e calcolatore, ho lo spirito cattivo, e ci faccio questo liquore, non parlo di pop, sti rapper li schernisco, le skills, le punchline che fate sono nannismo, ehi, ci fai o ci sei, ma quali contenuti, il vostro hip hop, fuori pop fake. Non è che moralizzo, frega cazzi,

manca il colle del momento per andare più in su. Io mi sveglio con la voglia di scappare via, lasciare un tag nell'inferno su un defender della polizia. È un headbang, rubber, colle del fomento, chiude il corpo di un agente sotto un blocco di cemento. Qui io cerco il sole dove si nasconde, ho le domande più profonde a cui nessuno mi risponde. Sì, io giro nella notte con il rap a braccio e batto i colpi sopra il tempo, forti come il giorno di maggio. Faccio quello che posso col mio cuore selvaggio, casserotto impianto ad alto voltaggio. Io guardo avanti come Tony Darko e tu ordai, scappo come Bonnie e Clyde quando parto. E non mi prendi più, io non mi fermo. Tengo il ghiaccio nei miei occhi per guardare questo inferno. Qui le onde vanno più su e la sfida è questa: provare ad affrontare questo mare in tempesta. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. Adesso vado dentro, casserotte da un impianto spento, fiuto il vento e attendo l'avvento. La nave madre chiama ma non è ancora il momento. Avverto canti di sirene ma non sento. Scendo come il tuono preceduto dal lampo, Jekka morta sul ring, generale sul campo, in combo sulla traccia. Rap da Fight Club, perché è un mondo che ti schiaccia, ti spezza le braccia. Seguimi sul trap, zio, seguimi sul puncia. C'è la nostra vita ed un massiccio non rinuncia. Chi non c'ha un cazzo da dire stia zitto. Armo le mie rime e si dia inizio al conflitto. Vienimi a cercare dove sono sempre stato, da quando ho scelto il nome che da solo mi sono dato. Nato al centro del quadrato, stretto un microfono come uno scettro e non l'ho più mollato. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. È una vita che da botte dure, Jordan 3 sul pavimento, facce scure, no paure, no che dure sul cemento. Io entro forte come il vento sulla scena, senti il battito che avanza e sotto i piedi la terra che trema. E nel mio petto l'odio pieno corre forte come un treno, perché il tempo per l'amore qua è sempre di meno. Le ore dentro una clessidra e corrono di più in una sfida che è infinita e non mi gusta. Io bevo sangue, passo sopra le chiacchiere, mi muovo in questo inferno fra smart e mini macchine. Ho tattiche di sabotaggio e mimetizzazione, rime col fattore X di rigenerazione. Dallo zoo di Roma giù fino alla fine della notte, mo trasmetto dentro bande di frequenza interrotte. Do stecche contro il muro con le nocche, Jekka Motta Ube in combo beat poi Johnny Rotten. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. Questo mondo che mi afferra e che mi tira giù, questa guerra che c'ho dentro non la voglio più. Resta sempre la voglia di scappare, ma sono scelto di farmi ascoltare solo per andare su. 12:34, allora ultimi minuti a disposizione di Parole Ribelli per questa settimana. Andiamo ancora a presentare un appuntamento per questo pomeriggio. Lo facciamo con Sara, lavoratrice dell'ospedale Gradenigo. Ciao Sara, ci senti? Ciao, mi sento, sì. Ok, niente, volevamo chiederti di presentare un po' l'appuntamento che ci sarà oggi, che segue la mobilitazione che c'è stata lo scorso sabato per le vie di Vanchiglia del centro per difendere l'ospedale Gradenigo da una possibile chiusura. Sembra che qualcosa evidentemente si sia mosso, quindi niente, ti lascio la parola per spiegarci un po' meglio. Sì, intanto finalmente, appunto, come dicevi, qualcosa si è mosso, quindi oggi in Consiglio Comunale è stata convocata la quarta commissione sanità per discutere appunto della situazione del Gradenigo insieme agli amministratori, insomma, della congregazione, nella persona della suora che gestisce appunto l'ente religioso che fa capo al Gradenigo. In continuità con la manifestazione del 15, noi come Unione Sindacale di Base abbiamo indetto il presidio di nuovo aperto a cittadinanze e lavoratori per ribadire appunto la ragione della protesta, e sperando che appunto la delegazione che andrà su con i lavoratori, sperando che ci facciano entrare, sia anche interpellata rispetto alle problematiche del presidio. Questo è quanto, ci auguriamo che, insomma, appunto, per la forza con cui abbiamo cominciato si prosegua, ecco, e siamo lì sotto per questo. Assolutamente, allora niente, rilanciamo anche da questi microfoni l'appuntamento per oggi pomeriggio. Sì, insomma, a partire dalle 15 circa, a Piazza Palazzo di Città 1, sotto il comune praticamente, il presidio è lì, insomma, lavoratori con i cittadini che aderiranno all'iniziativa. Va bene, sì, insomma, è importante esserci al di là del gradino, certo. Insomma, sappiamo che l'attacco alla sanità è ben più ampio, quindi difendere i vari pezzetti è importante. Noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E allora arrivederci a questo pomeriggio. Grazie. Buona giornata. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Di noi ti puoi fidare, man. Fai guidare me. Tu flippi col floppy o lasci ora doppi. Il play non lo stoppi, va al passo di coppi. La mia musa, una musa, due bussa al groove, al tre abuso ne abusa, non c'è scusa. Usa e mastico un lessico demagogo. Del girone il cicero non è, è il mio logo. Per il funk faccio fuoco, fossi punk fare fuoco. Toghe no, per me è togo. Quando accendi l'accendine da... Ci arriva una comunicazione. Vigili all'uscita della tangenziale su Corso Corseto in direzione Corso Vercelli. Cisti. Colla di Medion del maggio, un gitano in un viaggio, con titani in ostaggio, dal deserto digitale sono il saggio, raggi di luci danno luce e calore, tutti verso me come girasole al sole, lascia che la micia bruci, ho esplosioni sul set, da una traccia di geluci, altre se aprisse che il gatto, io e la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare, fai guidare me, lascia che la micia bruci, ho esplosioni sul set, da una traccia di geluci, altre se aprisse che il gatto, io e la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Fai guidare me, da una traccia di geluci, altre se affiste che, lascia che la micia bruci, ho esplosioni sul set. 12.38 da Radio Blackout, finisce la puntata di Parole Ribelli, vi aspettiamo come sempre a martedì prossimo, un ciao da Silvestro, Eddie. E un saluto anche da Francesca, rimanete sintonizzati sui 105.250, tra pochi minuti il GR di Blackout e poi Cattivi Pensieri. Buon ascolto.